I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Nuovo round ieri tra il governo e i sindacati sull'APE, l'anticipo pensionistico, cioè il meccanismo che consentirà a determinate condizioni di lasciare il lavoro fino a 3 anni prima dell'età per la pensione di vecchiaia, ottenendo un prestito che poi, quando si maturerà la pensione, sarà restituito in rate mensili per circa 20 anni. Si tratta di un sistema abbastanza articolato che entrerà in vigore all'inizio del prossimo anno, ma oggi, forse per la prima volta, è possibile avere un'idea reale di come funzionerà questo strumento, di quali saranno i costi e i vantaggi, come viene indicato nei molti esempi e nei calcoli pubblicati oggi sul Sole 24 Ore. Vediamo, l'APE, quindi il prestito pensionistico, non potrà superare il 95% della pensione, riguarderà tutti i lavoratori ai quali mancano fino a 3 anni per raggiungere i requisiti per la pensione e avrà un costo complessivo che sarà calcolato sia sulla base del tasso di interesse da applicare a questo prestito, si ipotizza il 2,5-3%, sia della copertura assicurativa che bisognerà stipulare per il caso di decesso anticipato. Lo Stato renderà fiscalmente deducibile la rata dell'APE con un risparmio per gli interessati che sarà più consistente per chi si trova in situazione di necessità, ad esempio i disoccupati. E questo risparmio si annullerà invece per chi sceglierà di anticipare la pensione, magari con un reddito elevato. In base ai nostri calcoli, il costo effettivo per chi sceglierà l'APE varierà tra l'1,5 e il 5% per ogni anno di anticipo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Non possiamo non parlare di Brexit. Oggi è uno di quei giorni in cui si fa la storia. Primo, Cameron si è dimostrato un leader miope e irresponsabile. La Gran Bretagna non doveva andare a quel voto. L'Europa aveva già fatto concessioni vantaggiose per Londra e anche la Corte UE aveva già dato il via libera ai tagli al welfare per gli immigrati, che erano la prima vera origine di quel quesito anti-europeo. Il risultato adesso è un'Europa a rischio di disgregazione, una Gran Bretagna che rischia di perdere la Scozia, intenzionata a rientrare in Europa. Un leader debole così avrà fatto la storia dell'Unione Europea. Secondo, il negoziato per il divorzio deve avvenire in tempi rapidissimi. L'incertezza e i tempi lunghi creano instabilità sui mercati e il brodo ideale per le speculazioni strumentali che colpiscono proprio paesi come l'Italia. L'uscita di scena di Cameron invece fa già preludere tempi lunghi e una palude diplomatica che non fa ben sperare. Terzo, l'Europa deve reagire con una nuova agenda che contenga un messaggio nuovo oltre l'ossessione della contabilità dei parametri di Maastricht. L'unione degli egoismi e delle miopie, come oramai è dimostrato, offende il progetto stesso dell'Europa che nasce nobile e alto e deve confluire negli Stati Uniti d'Europa. È il momento di creare gli eurobond e condividere il debito, di dare vita a un sussidio di disoccupazione europeo, di arrivare a una difesa comune, di realizzare finalmente l'unione bancaria con la garanzia comune dei depositi e di affrontare in modo finalmente europeo il tema dei migranti, da cui tutto origina e che non si può far finta di sottovalutare. La storia dell'Europa, forse più di altre, ci ha insegnato che da un male può nascere un bene. Oggi è suonata la campana, speriamo si trasformi presto nel suono di una sveglia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.